Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, martedì sera, prima puntata di questo 2014. E sono contenta, Brussellando va avanti, prosegue. Questa sera sono orfana dei miei compagni di viaggio, quindi ne approfitto già intanto per salutare Dani M alla regia. Buona serata e buon anno a tutti. Allora, devo riconoscere in diretta, perché questo poi è il bello della diretta, che io spero che mi ascoltiate, perché io in cuffia non sento nulla, assolutamente non mi sento. Quindi mi auguro che Dani M possa confermarmi invece che mi sente chiaro e forte. Sì, ti sentiamo chiaro e forte. Purtroppo l'anno radiofonico dal punto di vista tecnico è iniziato così come è finito, quindi. Va bene, quindi non ci sorprendiamo o non vi sorprendete se di tanto in tanto probabilmente la mia voce scomparirà, cosa che però non mi auguro. Dani mi ha fatto qualcosa perché mi è ritornata la voce in cuffia. Ebbene, bene, bene, bene. Allora, questa sera sarà difficile perché per più motivi. Innanzitutto sono solo soletta. Sono 3 settimane che non mandiamo in onda Brussellando, né registrato né in diretta, quindi mi ci vorrà un po' della mia abituale parlantina, come spesso mi viene riconosciuto, per accontentare tutti voi ascoltatori, quelli ovviamente più esigenti. Quindi, prima di passare alle belle notizie, e cioè che abbiamo un ospite, e cioè che quest'anno, come ogni anno ormai di questi tempi, cioè gennaio, apriamo la sezione dedicata ai diplomatici scrittori, sono particolarmente contenta perché inizio l'anno con uno dei miei diplomatici scrittori preferiti. Penso che ormai questa sia cosa nota e non me ne vogliano gli altri, però, che è Domenico Vecchioni, che questa volta non ci diletta con una spia, ma bensì con un medico dalle qualità estremamente speciali. Ma non posso dirvi di più perché altrimenti quelli più colti, un po' più raffinati, probabilmente hanno già capito, ma gli altri invece vorrei che iniziassero a pensare a qualche dottore medico, fisioterapista finlandese di origine estone, conosciuto per le sue capacità straordinarie, capacità che gli hanno permesso, e non vi sorprendete poi nel corso della trasmissione, di salvare tante vite umane. Quindi questo è chiaro, il dettaglio è preciso, parliamo della Seconda Guerra Mondiale e parliamo di un evento che tra qualche giorno, tra 12 giorni per essere preciso, sarà ricordato che per l'appunto il giorno della memoria. E come avrete notato, Brussellando ha sempre dedicato un momento di riflessione a questo momento che storicamente vorremmo poter cancellare, ma che invece è lì, e quindi è importante invece ricordarlo e ricordare la memoria, perché la memoria va conservata. A proposito di memoria, io invece volevo dare alcune notizie così di apertura per questo 2014. Uno, essendo a Bruxelles, capitale dell'Unione Europea, salutiamo l'ingresso della Lettonia, che adotta l'euro, quindi Lettonia è il 18° paese ad adottare l'euro. Sono quindi 18 il numero di stati membri che ormai si muovono liberamente senza alcun problema di cambio perché hanno un'unica moneta, cioè per l'appunto la moneta unica. Invece buone notizie anche per i nostri, non saprei come dire, per i cittadini, diciamo, di Romania e di Bulgaria, che invece dal 1° gennaio 2014 non si vedranno più imposte restrizioni in tema di lavoro. Questo è il 2014, è un anno la cui data fa tanto pensare, già che stasera parleremo proprio di storia. Un anno fa, tra qualche tempo, scusatemi, 100 anni fa, tra qualche tempo, succedeva qualcosa che avrebbe sconvolto la vita di milioni e milioni di persone, per l'appunto la prima guerra mondiale. Parliamo del 1914, parliamo di quegli eventi che sconvolsero quello che era l'assetto politico, geopolitico, sociale ed economico, non solo della vecchia Europa, ma di quelle coalizioni, di quelle alleanze che gradualmente erano nate agli inizi del Novecento. E vogliamo anche salutare ancora un altro anniversario di natura più piacevole, almeno per quanti amano la televisione. Il 3 gennaio del 1994, dopo un ventennio di esperimenti, iniziano le trasmissioni televisive della Rai Radio Televisione Italiana. Pensate, all'inizio si trattava di un unico canale che era possibile vedere solo in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Ma già alla fine del 54 il 48%, quindi metà della popolazione italiana, poteva o comunque poteva accedere alle trasmissioni. Ricordiamo che allora i dati dell'alfabetismo in Italia erano ancora estremamente poco incoraggianti, perché solo il 13%, diciamo, solo un quinto parlava correttamente l'italiano, quindi insomma c'era ancora quel sottile passaggio tra la lingua, se vogliamo, dialettale, quella che è poi cara a tutti noi, credo, in Italia, e poi la nostra bellissima lingua, che è l'italiano. Quindi salutiamo questo evento, perché comunque è stato uno di quegli episodi che sicuramente ha influenzato il modo poi di fare cultura e di trasmettere cultura non solo in Italia ma nel mondo. E invece poi volevo anche ricordare un po' di eventi, così iniziamo anche con l'agenda prima di dedicarci al nostro ospite, che so essere veramente ricco di dettagli e di particolari, e quindi stasera sarò particolarmente lieta perché non avremo proprio tanto problema di tempo, anzi spero che riusciremo a raccontare il maggior numero di cose parlando magari anche di storia. E quindi volevo ricordarvi un paio di eventi. So che anche Dani M ne voleva ricordare un paio, forse più di un paio. Sì, perché abbiamo un'agenda molto ricca, di solito all'inizio dell'anno a Bruxelles ha un'offerta culturale importante, per esempio ve ne segnalo due. Il primo si chiama L'arte del mattone, sono più di 60 oggetti costruiti con 1 milione di mattoncini, è un'esposizione che copre un'area di circa 1300 metri quadri e presenta appunto 60 oggetti impressionanti di un genere nuovo, costruiti con appunto dei mattoncini Lego. È una concezione, opere d'arte e concezioni eccezionali, si trova alla Bourse, quindi molto facilmente raggiungibile, Place de la Bourse 1 a 1000 Bruxelles, la tariffa per l'entrata è da 8,50 € fino a 15,50 € per gli adulti. C'è anche un sito www.expo-artofthebrick.be. È sempre aperto tutti i giorni della settimana fino alle 19:30 e la domenica fino alle 20, dalle 10 della mattina. Il secondo evento invece è più legato alle attività europee che si svolgono a Bruxelles ed è un focus sul Parlamento europeo, appunto, diciamo, con l'obiettivo delle elezioni che avranno luogo comunque a maggio, c'è tempo. Il centro dei visitatori del Parlamento europeo ripresenta le proprie attività e presenta soprattutto quello che avviene nelle coulisse del Parlamento europeo. Quindi ricordiamo che l'entrata naturalmente è gratuita, si trova in Ruvirst 60 1040 Etterbeek e avete appunto un orario di apertura più o meno diciamo da ufficio in settimana, quindi dall'1 alle 18, ma il sabato e la domenica, quindi aperto anche la domenica, dalle 9 alle 18. C'è un numero di telefono che è lo 02 283 22 2, potete raggiungere per tutte le informazioni del caso. E il secondo? Questo. Ah, scusa, io mi sono distratta mentre leggevo, invece stavo decidendo di quale parlarvi, e quindi vi parlo di questo, che è il corso di tamburello e tamorra con il maestro Massimo Laguardia, organizzato dalla Vitae Belga in collaborazione con Musique Publique, il 1° e il 2 febbraio 2014 ovviamente. Quindi tutti e due i giorni, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 16, presso la Maison de la Solidarité a Rue du Vaduc 133 a 1050 a Bruxelles. Per saperne di più vi invitiamo a consultare il sito della Vita è Belga. Invece ritorno ad uno degli eventi di cui pure abbiamo parlato a Bruxellando in chiusura del 2013, che è l'associazione culturale Mondo Arte Belgium, e la cui rappresentante qui a Bruxelles, Carola Magiulli, è stata proprio nostra ospite qualche settimana fa. L'associazione apre i battenti il mercoledì 22 gennaio alle ore 18:30 e Monsieur Solinis, non me ne voglia se magari invece è francese ed è Soligny o Solini, magari senza la S, quindi l'interpretazione è abbastanza variegata, ma ciò non toglie che architetto e professore di architettura all'Accademia delle Belle Arti di Bruxelles, che terrà una conferenza sull'architetto Renzo Piano, probabilmente il maggior architetto italiano vivente, Centre Pompidou a Parigi, Maison Hermès a Tokyo, Shard a Londra, quindi è un evento assolutamente interessante da non perdere. Per quanti fossero interessati possono scrivere a bruxellando@gmail.com entro venerdì, quindi credo che venerdì, Daniele mi aiuti a ricordare che giorno del mese è esattamente il numero? Venerdì è venerdì 17. Ah, ok, quindi venerdì 17, ecco, c'era qualcosa per il quale non volevo bene ricordare, però è bene, sì, entro venerdì 17 gennaio, perché dopo la conferenza seguirà anche un buffet. Continueremo a seguire con un certo interesse anche le attività dell'associazione, perché Bruxellando parteciperà soprattutto agli eventi letterari. E volevo anche ricordare un altro evento che è legato alla figura di Rita Levi Montalcini, perché questo è l'anno dei giovani ricercatori europei, quindi sono state istituite delle borse di studio per studiosi italiani e stranieri che operano all'estero, e quanti vorressero saperne di più, per tutti coloro i quali intendono svolgere un progetto di ricerca, possono consultare il nostro sito del Ministero dell'Istruzione, quindi istruzione.it. E sebbene questa sia una Befana veramente un po' speciale, viene la Befana, un'iniziativa dedicata ai più piccoli con il film di animazione La Freccia Azzurra di Enzo Dalò, che tanto è stato apprezzato anche durante il Festival del Cinema Mediterraneo, che sarà trasmesso alle ore 14:30 presso l'Istituto Italiano di Cultura in Rue de Livourne, come tutti sapete, a Rue de Livourne 38. Ci sarà ovviamente tanta musica, tanta allegria, soprattutto per i più piccoli, un rinfresco e immaginate, ci sarà anche una piacevole sorpresa proprio per i bambini. Bene, io direi di fermarmi qui prima di perdere quel poco di voce che ancora mi resta e inizierei ad introdurre invece Domenico Vecchioni, che, come avrete capito, l'unico ospite di questa sera, il che effettivamente ci darà la possibilità di poter approfondire veramente nel dettaglio le miracolose cure di Kersten, che era anche medico di Himmler, quindi abbiamo anche svelato il personaggio di questa sera. Come tutti voi sapete, Domenico Vecchioni è diplomatico di carriera, ex console a Madrid e Nizza, come ricorderete ci ha anche raccontato delle storie di Cuba, quindi ambasciatore d'Italia a Cuba, con la passione per la saggistica storica. Ha raccontato, ha pubblicato tante biografie, Raul Castro, Evita Perón, Pol Pot, Kim Philby, Richard Sorge e anche altri studi, come vi ricorderete, sullo spionaggio, la storia dello spionaggio, che è stato anche il primo saggio attraverso il quale noi stessi abbiamo potuto apprezzare la scrittura dell'ambasciatore Vecchioni. E vedrete che, per quanti saranno curiosi di leggere Felix Kersten, il medico di Heinrich Himmler, con un sottotitolo che veramente vi invita alla lettura, cioè Una storia straordinaria, edito da Greco e Greco Editori, ritroverete lo stile, è quello che a me, motivo per il quale Vecchioni poi è uno dei miei autori preferiti, è proprio perché è uno stile piano, semplice, veramente riesce a raccontare semplicemente anche episodi non semplici, e sicuramente la Seconda Guerra Mondiale non è uno di quegli eventi che a distanza di tempi si può riscrivere con facilità. E questo invece è un libro che si presta veramente per una gradevole lettura, magari la domenica pomeriggio, riuscire tu a leggerlo veramente in qualche giorno. Do il benvenuto quindi all'ambasciatore Vecchioni, che è in diretta telefonica da Roma. Ambasciatore, benvenuto a Radio Alma, brustellando. Eccomi qua, come sta? Lieto di ritrovarti. Finalmente, un anno dopo. Mi pare che l'ultima intervista è stata a fine gennaio 2013. Allora, puntuali. Puntuali, riapriamo la sezione della penna del diplomatico, quindi di voi diplomatici, con la passione della scrittura. E ambasciatore, questa volta ci sorprende con un personaggio un po' diverso dai personaggi di cui ci ha raccontato finora, che è Felix Kersten. Come mai questa scelta? Ma mi ha molto colpito la sua storia, che è stata del tutto dimenticata, mi pare, diciamo, di questo medico fisioterapista che utilizzava in qualche modo i crampi addominali di Himmler come uno strumento per salvare delle persone, e ne ha salvate parecchie. Lei inizia il romanzo soprattutto con un paio di pagine, diciamo, introduttive. Io però non partirei dalla premessa, partirei invece, ci arriveremo gradualmente a quella premessa, partirei proprio dal personaggio Kersten. Può raccontarci qualcosa, come fa per l'appunto nel primo capitolo, sulla formazione professionale, così da raccontare proprio di queste capacità straordinarie? Beh, certo, Kersten è un tedesco del Baltico e studia nella capitale di riferimento di allora, che era Berlino, e è convinto di aver ereditato dalla madre un particolare dono, perché anche la madre di Kersten aveva questa facoltà di curare alcune malattie attraverso dei massaggi, per cui lui sente di avere questo dono e studia questo particolare tipo di massaggio, il massaggio scientifico, che era molto, molto in voga a quell'epoca. Ma la particolarità è che a Berlino incontra un medico cinese che invece seguiva un'altra strada, cioè la guarigione tradizionale tibetana. I due diventano amici, insomma, il vecchio medico cinese e il giovane Kersten collaborano per un certo periodo di tempo, e la caratteristica di Kersten è quella di aver assimilato, diciamo, le due scuole, quella del massaggio scientifico finlandese in particolare e la tecnica tradizionale di guarigione tibetana, per cui diventa presto un fisioterapista richiesto in tutta l'Europa, persino in Italia, persino Galeazzo Ciano sarà uno dei suoi clienti più affezionati, e quindi è una persona soddisfatta di sé, del suo lavoro, non fa politica, apre il suo studio medico anche all'Aia, quindi ne ha due, uno a Berlino e uno all'Aia, fino a quando un suo paziente, al quale Kersten era molto affezionato, gli chiede un favore, gli chiede di visitare anche il capo dell'SS Heinrich Himmler, che soffre di questi terribili dolori addominali e che nessun medico era mai riuscito a togliere. Ambasciatore, prima di parlare dell'incontro con Heinrich Himmler, io sono stata colpita da una frase che lei scrive proprio agli inizi sul dottor Co, perché lei scrive che il dottor Co sostiene che il segreto principale del massaggio è la facoltà, o meglio il dono, di sentire con la punta delle dita l'essenza della malattia, di misurarne l'intensità e saper riconoscere il centro vitale da dove viene irradiata. Io trovo che questo elemento in quegli anni fosse effettivamente comunque di una certa lungimiranza, perché in tempi assolutamente non sospetti, in tempi in cui comunque la tecnologia non era così avanzata come oggi, invece questo professore arrivava a avere un livello di analisi, di, diciamo, un livello di analisi molto sofisticato comparato ai suoi tempi. Quindi io sarei curiosa di sapere qual è la sua interpretazione rispetto invece all'uomo Kersten, che era un uomo occidentale, quindi c'è questo incontro, se vogliamo, tra... E questo, esattamente, lui questa tecnica l'acquisisce appunto dall'orientale, dal cinese, che il quale è convinto di aver incontrato la persona alla quale deve rivelare tutta la sua scienza, e in effetti a un certo punto ritiene di aver detto tutto a Kersten, di avergli insegnato tutto, e se ne ritorna in Cina, dove va a morire, perché sa anche il giorno in cui morirà. Certo. E quindi la particolarità di Kersten era proprio quella di essere riuscito un po' a coniugare questi due modi di praticare il massaggio, e che richiedeva sicuramente moltissima concentrazione. Ora, mentre per l'orientale era molto più facile arrivare a questo stato, no, di forte concentrazione nei confronti del paziente, ecco, Kersten imparerà questa tecnica e poi ci arriverà anche lui. E poi c'è una data, tra l'altro, che è la famosa data del 10 marzo 1939, mi corregga se sbaglio, in cui avviene questo incontro importante per l'uno e per l'altro, ma probabilmente per l'altro, senza saperlo ancora, sarà un evento ancora più importante. Quindi incontra per l'appunto Heinrich Himmler. Secondo lei quale fu l'elemento che colpì Himmler nel poi continuare a, diciamo, a... Himmler rimase stupefatto, perché dopo appena qualche minuto di manipolazione, per la prima volta si sentì liberato da questi crampi, da questi dolori, quindi si sentì rinascere praticamente, e da allora non poté più fare a meno del suo Buddha magico, come lo chiamava, divenne la sua droga, e Kersten poco a poco si rese conto dell'emprise psicologica che aveva su Himmler, e cercò di sfruttarla per il meglio, cercò di sfruttarla per il bene dell'umanità. E per l'appunto qui già nel 1940 iniziano i primi salvataggi. Quindi magari sì, inizia tutto per caso, cioè sempre quello stesso paziente al quale Kersten era molto affezionato gli chiede di intervenire presso Himmler per liberare un suo collaboratore che era stato arrestato perché considerato di idee socialiste, eccetera. Ma Kersten si meraviglia, si chiede, gli dice: ma io cosa posso fare? Io non c'entro su queste cose. Però l'amico insiste e Kersten promette che comunque ci proverà. E succede che durante una delle tante sedute, quando si rende conto che Himmler si sente meglio, insomma la cura ha fatto molto effetto, e Himmler si ricorda all'improvviso che in realtà non ha mai pagato il suo dottore, e gli chiede, scusandosi del ritardo, qual è il suo onorario, insomma, di tutte le sedute fatte. E Kersten ha come un'ispirazione. E gli risponde che lui in realtà non vuole denaro, non ne ha nemmeno bisogno, perché Kersten guadagnava molto di più dello stesso Himmler, che aveva solo il suo stipendio statale, e gli dice però in cambio vorrei la libertà di un uomo. E certo, non sapendo ancora come avrebbe reagito Himmler, avrebbe potuto reagire male, no? Perché certo, erano cose che non... E invece Himmler reagisse in maniera molto positiva e gli dice: ma certamente, per il mio buon dottor Kersten non posso che accedere a queste richieste. E quello è il primo salvataggio, che fa capire a Kersten quanto potere ormai aveva acquisito. Un po' il rapporto si era invertito, Himmler ora a dipendere da Kersten. Sì, quindi lei lo scrive molto bene, infatti nel suo libro proprio si viene a creare questo rapporto di dipendenza psicologica ovviamente, fisica anche dall'altro, perché proprio il potere, diciamo, delle mani di Kersen è sentita come miracolosa dalla parte dello stesso gerarca nazista. Però ci sono anche trappole, rischi che lo stesso Kersten, a cui lo stesso Kersten deve fare attenzione. Magari ci vuole raccontare qualche episodio, qualche evento che... Sì, beh, sì, perché diciamo che ai duri della Gestapo non andava giù che un medico, uno straniero frequentasse, diciamo, il quartier generale dell'SS, si muovesse con tanta libertà e che stesse tanto tempo con Himmler, e che ormai avevano capito tutti questi provvedimenti di clemenza, di liberazione di Himmler erano dovuti a Kersten, e cominciano a sospettare che fosse una spia, fosse un agente straniero, insomma non lo vedono di buon occhio e cominciano un po' a tramare alle sue spalle, soprattutto poi c'è la guerra, quindi le cose si complicano e insomma cercano di farlo fuori. Lui eviterà proprio all'ultimo momento di una trappola che gli tende proprio il capo della Gestapo, e potrà farlo perché avrà due alleati in qualche modo, cioè due persone che per motivi politici, non per motivi umanitari, perché pensavano magari già al dopo Hitler, e cioè Schellenberg e il segretario particolare di Himmler, che sapevano delle iniziative di Kersten e le appoggiavano. E un giorno Schellenberg avverte Kersten, che stava salendo in macchina per recarsi alla stazione, perché era stato convocato in Prussia da Himmler, e gli dice assolutamente di non fare il solito percorso con la macchina dalla casa di campagna di Kersten nella stazione, ma di farne un altro. E in realtà poi si venne a sapere che se avesse fatto il percorso abituale la macchina sarebbe stata fermata, e lui e l'autista sarebbero stati uccisi. Poi avrebbero simulato un incidente, avrebbero simulato il fatto che la macchina non si era fermata all'alt dei militari, e che in tempo di guerra c'erano delle leggi rigidissime per cui chi ha una macchina che non si fermava doveva essere fermata con mitragliandola, e quindi c'era stato un incidente. Purtroppo nella macchina c'era il dottor Kersten, con tante rammarico per Himmler, però il capo della Gestapo avrebbe messo in evidenza il fatto che i suoi uomini avevano fatto il loro dovere, e quando Himmler naturalmente seppe della cosa, certo, assolutamente, una collera furiosa, e insomma lì poi non possiamo raccontare tutto, ma c'è una scena proprio di un film, una colazione di lavoro con Himmler, Kersten, il capo della Gestapo, eccetera, dove Himmler chiarisce una volta per tutte e dice al capo della Gestapo che non sarebbe sopravvissuto 5 minuti in più se fosse successo qualcosa a Kersten. E a quel punto, insomma, il capo della Gestapo lo capisce e Kersten viene lasciato in pace. E tra l'altro poi arriviamo proprio a quel momento in cui questo grande progetto, se vogliamo, di speranza, che era proprio salvare il maggior numero di vite umane, inizia a realizzarsi, fin tanto che non si giunge a quel famoso contratto che Ledi definisce contratto in nome dell'umanità. Allora, non vorrei svelare troppo dettagli su questa parte, però vorrei semplicemente che lei potesse fornire ai nostri amici ascoltatori magari qualche elemento storico, e soprattutto come ha lavorato sulle fonti, quali sono state le sue fonti di riferimento. Ma guardi, il personaggio Kersten appare a prima vista talmente incredibile che è stato a volte anche contestato, si è detto che avesse inventato molto di quello che ha scritto nelle sue memorie, ma io mi sono rifatto essenzialmente a tre fonti che invece attestano il contrario. La prima, più importante, è quella del più grande storico britannico della Seconda Guerra Mondiale, che era Trevor Roper. Trevor Roper ha ripassato, diciamo, al setaccio gli atti di una commissione che era stata istituita in Olanda, commissione fatta di storici e di diplomatici, e che anche loro erano arrivati alle stesse conclusioni, che Kersten aveva detto la verità. Certo. Trevor Roper rifà la stessa cosa e dirà: non c'è stato, anzi, ce l'ho qui di fronte, gliela leggo la frase. Trevor Roper dice: non c'è uomo la cui avventura non sia apparsa a prima vista così incredibile, ma non c'è uomo per contro la cui avventura non abbia subito una verifica così minuziosa. Essa è stata scrutata da eruditi, giuristi e persino da avversari politici. Essa ha trionfato su tutte le avversità. Quindi il giudizio di Trevor Roper è abbastanza netto. E poi gli stessi svedesi, che, come vedremo invece per motivi che chiariremo, avevano tenuto la storia di Kersten molto, molto in sordina, alla fine anche loro ebbero modo di ricredersi in un libro bianco pubblicato nel 1956, dove appunto si prende atto, insomma, di tutte queste iniziative di Kersten in favore non solo di ebrei, ma anche di non ebrei, soprattutto dei prigionieri nordici. Certo, sì, scandinavi, diciamo. Poi alla fine, in pratica, poi lo vedremo in questo famoso contratto in nome dell'umanità, vengono salvaguardati gli stessi campi di concentramento negli ultimi giorni, perché Hitler vagheggiava un colpo di coda finale. Tutti dovevano morire con il grande capo, aveva dato ordine, insomma, di far saltare i campi di concentramento con tutti i prigionieri. È il 15 febbraio 1945, nei vari campi ci sono 800.000 persone internate, di cui circa 60.000 ebrei. Quindi occorre fare assolutamente qualcosa proprio per impedire un'ulteriore, come scrive lei, immane, inutile strage. Quindi che cosa pensa questo nostro dottore veramente straordinario di ricorrere nuovamente alle sue mani magiche? Sì, bisogna dire che questo grande salvataggio in realtà viene concepito dal governo svedese. Gli svedesi volevano forse farsi perdonare la loro neutralità benevola nei confronti dei nazisti verso la fine, quindi immagino alcune iniziative, inviano per esempio famosissimo Wallenberg in Ungheria a salvare, per un salvataggio di massa anche lì, e pensano che Kersten può essere utile, e infatti scelgono, come dire, la persona giusta, e inizialmente l'obiettivo del governo svedese è di salvare almeno gli internati, insomma, i prigionieri nordici. Uh-huh. E incaricano Kersten di negoziare con Himmler la liberazione di queste persone, e Kersten ottiene l'accordo di Himmler. L'unica condizione che pone Himmler è che queste persone siano prese a carico dal paese che le ospiterà, ma la Svezia è totalmente disponibile a farlo. E questo avviene strane coincidenze del destino, il 20 luglio del 1944 Himmler dà il suo accordo, però il 20 luglio è il giorno del famoso attentato a Hitler. Uh-huh. Per cui improvvisamente tutto si ferma, bisognerà aspettare ancora qualche mese, quando Kersten, insomma, ricomincia la sua opera, insistendo e facendo, naturalmente Himmler certe cose le faceva non solo perché gliele chiedesse il suo medico, per quanto avesse questa grande influenza psicologica, ma perché aveva in mente di magari sostituire Hitler, o comunque di dare dei segnali agli alleati per acquisire qualche credito, per salvare se non l'onore, perché ormai l'aveva già perso dopo tutto quello che aveva fatto, ma almeno per salvare la vita. Quindi questi due elementi, l'emprise psicologica di Kersten, le velleità di una pace separata di Himmler, il fatto che anche Schellenberg e altri insomma incoraggiassero Himmler su questa strada, fa in modo che venga fuori questo famoso contratto in nome dell'umanità, che è diciamo un documento straordinario, unico, perché è in pratica la fine della Shoah, perché tra le altre cause è previsto che nessun ebreo sarebbe stato più giustiziato. Uh-huh. Ed è previsto soprattutto che i campi di concentramento sarebbero stati preservati e non sarebbero stati distrutti, come invece prevedeva un ordine di Hitler. E invece Himmler era in grado di opporsi a quest'ordine, perché la gestione dei campi di concentramento era in mano alle SS, quindi chi meglio di lui poteva dare disposizioni. E quando Hitler lo seppe, ma parliamo degli ultimi giorni, tutto avviene negli ultimi 15 giorni, destituì immediatamente Himmler di tutte le sue funzioni e anzi lo condannò anche a morte. Infatti, comunque, allora io volevo sottolineare, però, prima di arrivare poi a quelli che furono i due destini diversi, uno della, diciamo, di Himmler e l'altro di Kersten, i quattro punti che Kersten riesce a strappare per l'appunto a Himmler. Uno è che i campi di concentramento non saranno distrutti. Due, che la bandiera bianca sventolerà sui campi all'arrivo degli alleati. Tre, non sarà più giustiziato alcun ebreo. Gli ebrei d'ora in poi saranno trattati come gli altri prigionieri. 4. La Svezia potrà inviare pacchi individuali ai prigionieri. In calce, quindi, le firme di Himmler, Reichsführer e di Kersten in nome dell'umanità. E, ambasciatore, lei ha potuto rinvenire questo documento, diciamo, non saprei come dire, ufficialmente? No, in originale no, però esistono... diciamo sempre dei riferimenti indiretti che ne attestano l'esistenza. Questo documento è conservato negli archivi olandesi, dove ci sono tutte le carte di Kersten, per cui uh-huh. Insomma non credo che si possa dubitare della sua esistenza, stata confermata anche, come dicevo, da questa commissione presieduta da uno storico, dal più grande storico olandese, che si chiamava Postumus, per un anno, diciamo, hanno esaminato tutti questi documenti per rispondere alle accuse di chi diceva che Kersten in realtà era solo un nazista, era solo l'amico di Himmler e che aveva sì salvato delle persone, ma l'aveva fatto solo per motivi venali, perché si era fatto pagare, che si era arricchito così. Tutto questo, tutte accuse sono state del tutto cancellate e poi finalmente, piano a piano, poi la storia di Kersten si seppe, lui ebbe riconoscimenti in molti paesi d'Europa, e a parte l'Olanda, a parte la Finlandia, ma insomma morì nel 60 proprio mentre si recava a Parigi per ricevere dalle mani del generale de Gaulle la Legion d'Honneur, perché aveva salvato anche molti francesi. Assolutamente, infatti questa è poi diciamo la conclusione un po' magari inattesa di questa sua vita estremamente straordinaria. Ambasciatore, io la ringrazio veramente, perché mi ha fatto scoprire un personaggio che, nonostante la mia grande passione per la storia, non conoscevo, e le volevo chiedere in conclusione, perché ahimè il tempo in radio è tiranno, un commento magari anche su tutte queste polemiche, sul fatto di non voler commemorare comunque il centenario dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Lei che cosa ne pensa, onestamente, veramente, intellettualmente parlando? Beh, no, io penso che sia anzi un'occasione, cioè siccome tante cose non vedo perché non si dovrebbe ricordare quello che è successo 100 anni fa, che poi fu veramente la prima guerra mondiale, che però ebbe un seguito poi. Ah, purtroppo, sì. Non fu quella che forse doveva essere con la seconda guerra mondiale, perché è bene che che queste cose si ricordino, perché ricordandole poi si possono capire meglio, definire meglio, escono sempre fuori nuove notizie, quindi no, io penso che sia assolutamente da commemorare, se non c'è niente da festeggiare, ma da ricordare, come del resto, come lei sa, il 27 gennaio di ogni anno ormai in Italia addirittura per legge si commemora la giornata della memoria, e questo dà l'occasione appunto per conoscere sempre nuovi, per esempio, salvatori, di persone che si opposero, che ebbero il coraggio di opporsi alla strage degli ebrei, e ricordando delle figure ai più sconosciute, insomma. In effetti, tra l'altro, Himmler penso sia conosciuto soprattutto per essere il burocrate dello sterminio, quindi sicuramente questo incontro fu estremamente eccezionale. Ambasciatore, io so che lei scrive molto, no? Che uno veramente si dedica molto ai suoi libri e ai suoi saggi. Sta già lavorando a qualcosa? Ci può già svelare qualche novità per questo 2014? Il prossimo, perché io alterno un po' tra appunto personaggi di questo genere, storici, delle spie famose. Eh sì, io le ho lette tutte quelle. Però questa non è tanto famosa, cioè non è tanto conosciuta, perché perché è ancora viva, la spia americana di Fidel Castro. È tutto un programma. E allora io le devo strappare una promessa. Tra un anno. Allora ci troviamo, gennaio 2015. Parleremo, ci ritroveremo. Grazie della vostra disponibilità. Ambasciatore, siamo noi a ringraziarla e vorrebbe inviare un saluto, oppure ancora c'è qualcosa che non gli ho chiesto che vorrebbe condividere ancora con i nostri ascoltatori? Beh, no, insomma, l'importante è che leggano il libro, che lo comprino. Assolutamente. E quindi ricordiamo, sì. Felix Kersten, il medico di Heinrich Himmler, una storia straordinaria, Greco e Greco Editori, Domenico Vecchioni, vi rapirà con la sua scrittura semplice e soprattutto accattivante. Grazie. Ambasciatore, grazie. A presto! Arrivederci. Cari amici, cari amiche, eccoci qui a Bruxellando per questa prima trasmissione del 2014, quindi 14 gennaio 2014. Sicuramente a Napoli qualcuno si sarà sbizzarrito e avrà proposto magari qualche numero da giocare all'otto, chissà. A proposito di date, ho trovato due chicche storiche che vorrei condividere con voi, perché riguardano due eventi. Uno, 21 gennaio 1924 muore Lenin. Inizia nell'Unione Sovietica la lotta per la successione tra Trotsky, Stalin, Zinoviev e Kramenev. Quindi voglio dire, insomma, 90 anni fa moriva comunque un uomo che ha caratterizzato non solo un secolo, ma sicuramente un'epoca, e parliamo di un uomo comunque con una forza e con una personalità estremamente interessanti. Invece, un evento più recente, ma comunque significativo, 4 gennaio 1964. Per la prima volta un pontefice viaggia in aereo. Si tratta di Paolo VI, che si recava a Gerusalemme. Fu anche il primo incontro tra il capo della Chiesa cattolica e il capo della Chiesa ortodossa. Di grande rilievo fu la sua scelta di rinunciare, nel 1964, all'uso della tiara papale, mettendola in vendita per aiutare con il ricavato i più bisognosi. Pensate, siamo nel 1964 che il cardinale Francis Joseph Spellman, arcivescovo di New York, la acquistò con una sottoscrizione che superò il milione di dollari, e da allora è conservata nella Basilica dell'Immacolata Concezione di Washington. Potete immaginare quanto questa somma all'epoca avesse fatto scalpore. E poiché siamo all'inizio dell'anno, faccio un po' come si faceva un po' di tempo fa, voglio ricordare qualche evento che è accaduto durante questo anno che abbiamo appena lasciato alle spalle. Ricordiamo l'addio che abbiamo dovuto dare a Mariangela Melato, scomparsa proprio un anno fa, l'11 gennaio. Papa Benedetto XVI in febbraio annuncia le sue dimissioni, un mese abbastanza importante per noi italiani che siamo andati anche al voto. E a marzo invece Bergoglio è Papa, con questo nome così significativo ed evocativo, di Francesco. Figuratevi che Bergoglio ha già al suo attivo 3 primati da Papa. È il primo gesuita a salire sul soglio pontificio, nonché il primo a chiamarsi Francesco e il primo sudamericano. Tra le altre notizie tristi abbiamo anche dato l'addio a Mennea, alla Freccia del Sud, che invece si è spento il 21 marzo scorso, tra l'altro giovanissima. Ricordiamo, medaglia d'oro nei 200 alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e primatista mondiale della specialità per molti anni, con 19 secondi e 72 decimi, credo si dica così, che è tuttora il record europeo. Poi cos'altro? Beh, a parte tutti i capovolgimenti che ci sono stati in Italia, la Juve è stata campione d'Italia nuovamente, lo ricordiamo, ma e quest'anno credo che sia anche sulla buona strada. E va bene, altre cose che probabilmente possiamo sicuramente dimenticare. Però una chicca, e questa è un'invenzione che di Google, che è assolutamente straordinaria, un anno in 90 secondi. Tra gli eventi più ricercati nel 2013, la nascita del Royal Baby George, figlio di Kate Williams, ma anche la morte della Lady di Ferro, Margaret Thatcher, del grande della musica Lou Reed, del leader della lotta all'apartheid, Nelson Mandela. Quindi come vedete, queste è stato un anno che ha assistito veramente alla partenza di tante grosse personalità. Anche l'elezione del Papa è stato tra gli eventi più ricercati, così come le parole chiave che riguardano i movimenti per i diritti umani. Ma non vi preoccupate, non ci sono soltanto temi così importanti, ma temi leggeri che sono diventati fenomeni mondiali, come il concerto dei Rolling Stones e il documentario a loro dedicato. Quindi vedete, ricercando in Google, ricercando un po' queste paroline chiave che ormai riescono veramente a raccontarci tutto in questa semantica del web, che è sempre più sofisticata ed è importante, cui anche le aziende fanno riferimento, ci riescono poi a dire anche come cambiamo, come cambiano i nostri gusti, come cambiano le nostre percezioni, le nostre aspettative. E allora, prima di salutarci, perché ahimè il tempo è tiranno, voglio ricordarvi ancora un evento, che è la vita segreta delle stelle. Potevamo chiudere senza fare riferimento alle stelle? Assolutamente no. C'è una manifestazione organizzata al Planetarium di Bruxelles, all'Aachen. La tariffa è veramente modica, di 7 euro. E resterà aperta praticamente per tutto un anno, fino al prossimo 30 dicembre. Quindi veramente non si può avere nessuna scusa per non andare a visitare questa mostra, che dai contenuti si annuncia veramente straordinario, soprattutto uno straordinario spettacolo di luci di queste di questi pianeti, perché per me la stella è veramente un pianeta che mi lascia sempre sognare, possiamo dire anche così. Per quanti volessero saperne di più, planetarium.be, evito di dire www perché è veramente lungo, orario di apertura purtroppo solo dalle 16 alle 17, quindi andate numerosi, ma andate magari qualche minuto prima, così da essere certi di poter assistere alla manifestazione. E questa è stata la prima puntata di Bruxellando, la prima puntata che ha visto come protagonista l'ambasciatore Domenico Vecchioni, autore di Felix Kersten, il medico di Heinrich Himmler, edito da Greco e Greco Editori. Potrete ritrovare la copia veramente facilmente un po' dappertutto sui siti che vi propongono di acquistare libri online, e fatelo, perché la lettura alimenta quella che è la nostra conoscenza, amplia quelli che sono i nostri orizzonti e ci permette di andare sempre oltre e di scoprire tante cose senza fermarci mai. Martedì non è con voi, martedì prossimo, quindi probabilmente se martedì prossimo mi riascolterete ancora con Domenico Vecchioni, saprete che probabilmente la trasmissione non è andata in onda. Io saluto innanzitutto tutti voi che pazientemente avete avuto la bontà di ascoltare Bruxellando anche questa sera. Vi do appuntamento, almeno personalmente, tra due settimane. Saluto i nostri compagni di viaggio, Giorgio Laurent e Fiordaliso, che non sono qui con noi questa sera, ma lo saranno molto presto. Saluto in regia l'insostituibile Dani M. Grazie, buona serata a tutti. E io auguro veramente a tutti un'ottima settimana, un'ottima ripresa. D'altronde quest'anno siamo veramente gatè, come si dice da queste parti. Il clima è assolutamente fantastico, quindi per il momento, almeno per questo, non possiamo lamentarci. Io rinnovo quelli che sono stati gli auguri di buon anno che ho condiviso con voi nella puntata di chiusura di Bruxellando. Auguro davvero a tutti quanti di poter perseguire i propri sogni, i propri obiettivi, tutto ciò che il vostro cuore desidera, come direbbe mia nonna, che pure saluto, e vi do appuntamento a martedì 21 gennaio alle ore 20. Buona settimana a tutti. Buona serata, grazie Maridì.